Questa è la mia Italia, terra della mia terra, quella che non si inchina, non si piega, che non molla, respira a pieni polmoni, canta sotto le stelle. Bella ciao, bella fanciulla, tu per me sei tra le più belle. La terra della mia terra semina nel cielo, si accontenta di poco, lotta per il sereno, libera tra le bufere, le chiede strada alle balene, a chi la vuole solo umiliare, lei risponde ma vai a pescare. Terra del mio cielo, ricca di sale, molto vicina alla luce del tramonto, ai sogni della luna, si nutre di arte e sogni, libera adrenalina. L'altra faccia dell'Italia è un'Italia che cammina, è una nave piena di luce, le mani grandi, ha una bella voce. Quando piange mi spezza il cuore, quando ride gli regalo un fiore, chi la vede se ne innamora, perché l'Italia è una sola, una sirena da abbracciare, che quando canta balla anche il sole. Una madre ama i suoi figli ed io amo la mia terra, la sua voglia limpida, trasparente, di aria pura, di gente bella, voglia di liberarsi della zizzania che vorrebbe tagliargli le gambe. Eppure la mia terra sta crescendo, perché la mia terra ha un cuore grande. Nelle piazze, nei cortili, donne, uomini e bambini stanno tracciando il sentiero, una nuova strada che profuma di grano, più vicina ad ogni vicino, più vicina a chi è lontano. Nel tuo porto lascia entrare i gabbiani, tu mia stella di ieri, oggi e domani. Terra del mio cielo, ricca di sale, molto vicina alla luce del tramonto, ai sogni della luna, si nutre di arte e sogna, libera adrenalina. L'altra faccia dell'Italia è un'Italia che cammina, è una nave piena di luce, le mani grandi, ha una bella voce. Quando piange mi spezza il cuore, quando ride gli regalo un fiore, chi la vede se ne innamora, perché l'Italia è una sola, una sirena da abbracciare, che quando canta balla anche il sole. Questa è la mia Italia, terra della mia terra, quella che non si inchina e nelle spiagge balla regina. È una terra che ti dà una mano e guarda più lontano. La mia terra ha un odore di fieno, la mia terra è il mio essere uomo. Questa è la mia Italia, terra della mia terra, quella che non si inchina e nelle spiagge balla regina. È una terra che ti dà una mano e guarda più lontano. La mia terra ha un odore di fieno,